bella del nonno, non ti cruciar, che io non t'accosterò. Non ti vorresti tanto comandar, quanto io tu vi dirò. E se io son nato per essere servo a Dia, non mi dir villania, accostati con mia. A me sta cortesia, a mia fammela fa. Siamo da Adamo, perciò non ci lasciamo, anzi mo ci accostiamo e un bacio tu mi dai.